tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Homage to the Buddha, the Blessed, Noble, and Fully Self-Awakened One. Omaggio al Buddha, nobile, perfettamente auto-illuminato. Vabbè. this evening, to make it clear, especially to beginners, questa sera, per fare chiarezza, specialmente con i principianti, The three things that we need to understand in order to make this meditation work for us. Tre cose che bisogna capire per far funzionare questa meditazione. Sì. The first one is, what does the Buddha mean by awareness? La prima è, che cosa intende il Buddha con consapevolezza? Right awareness. La retta consapevolezza. Mm. How do we deal with all these physical and mental states that arise? Come possiamo rapportarci con tutti questi stati fisici e mentali? So that they become our teachers. Diventano i nostri maestri. And finally, what is it we're actually supposed to be investigating? E infine, che cosa veramente significa investigare? So most of these we've talked about during the day, so it's just an opportunity to bring it all together. Abbiamo parlato già un po' di queste cose durante il giorno e questa è un'opportunità per metterle insieme. To understand right awareness, per capire la retta consapevolezza, it's useful just to run through how the Buddha himself discovered it. È utile ripercorrere lo stesso percorso di come fece il Buddha quando la scoprì. So remember, he didn't invent it, he discovered it. Non la inventò, la scoprì. Remember, he left his family in search of some sort of answer to his life. Il Buddha lasciò la sua famiglia cercando una qualche risposta alla sua vita. When you read that story from a modern perspective, you think, well, how could he abandon his wife and his newly born child? Se guardate la storia da una prospettiva moderna, vi potreste chiedere come ha fatto a abbandonare la moglie e il bambino appena nato. Of course, in those days there was an extended family. E naturalmente in quei giorni la famiglia era estesa. As it might have been in Europe maybe 50 years ago. Come poteva essere anche in Europa 50 anni fa. Oh, maybe 100 years. Forse 100. Now we're all little nuclear families, you see. Ora sono solo piccoli nuclei familiari. So first of all, she would have obviously had a large family around her. E naturalmente, per prima cosa, naturalmente aveva una grande famiglia intorno a lei. And we must presume that he had lots of discussions with her and his parents and family. E possiamo immaginare che lui ha avuto un sacco di discussioni con lei e con la famiglia. And although he doesn't say this, he probably said, I'll only be away 1 or 2 years. 1 or 2 months. Molto probabilmente avrà detto, ma me ne starò via solo un paio di mesi. So what was it that pushed him to do this? Quindi che cos'è che lo ha spinto a fare questo? So it's what we would call today an existential crisis. È quella che oggi potremmo chiamare una crisi esistenziale. So he's 29 years old. Ha 29 anni. So, you know, in your middle 20s, you suddenly realize life comes to an end. E di solito a metà dei 20 anni si comincia a capire che la vita ha una fine. Mm. Youth begins to disappear in your mid-20s. In questo periodo di età, a metà dei 20 anni, la giovinezza comincia a scomparire. You have to take life just a little more seriously. La vita va presa in un modo un po' più serio. Mm. This is for most people, eh? Per la maggioranza delle persone. So, this is expressed through a myth. E questo è espresso in un mito. Ah, so he was a prince of a very rich king. E quindi lui era un principe, figlio di un re molto ricco. Who kept him always feeling happy? Che cercava di farlo essere sempre felice. And when he went out on his own one day, he saw a sick person, a very old person, a corpse, and someone sitting under a tree. E una volta che uscì da solo, vide una persona malata, un vecchio, un cadavere, e una persona che se ne stava da solo in ritiro. So he said, of course. He wanted to know what this is. He had not seen it before. E naturalmente lui non l'aveva mai visto prima e voleva capire che cos'era questi quattro. So at some point he begins to realize he may fall ill, he will grow old, he will die. E a un certo punto capì che lui stesso sarebbe diventato vecchio, sarebbe diventato malato e morto. So this is the existential crisis. E questa è la crisi esistenziale. If it doesn't hit you at 29, it hits you at 40. Se non vi prende a 29 anni, vi prenderà ai 40. If not at 40, at 60. E se non è a 40, a 60. If not at 60, just before you die. E se non è a 60, sarà subito prima di morire. It's a bit late then, huh? Però a quel punto è un po' troppo tardi. So, the man sitting, the ascetic sitting under the tree, suggested there was an escape. E però l'asceta che sedeva in ritiro suggeriva che c'era una via d'uscita. Now his father was a headman of a clan. Il padre del Buddha era il capo di un clan. Who were subject to the king of Kosala. Che erano soggetti, questo clan era soggetto al re di Kosala. Yeah. So he just belonged to the Kshatriya clan, which was the warrior clan. Yeah. E quindi the warrior caste. Appartenevano al clan Kshatriya, che sono guerrieri. A caste, not clan. Caste. Una casta. Casta. So in those days there was quite a change in society. In quei giorni c'erano parecchi cambiamenti nella società. It was not quite as violent as our own, but quite a big one. Non era violenta come oggi, però abbastanza. Lo era abbastanza. First of all, there was a movement away from self-governing clans to kingships. C'era un movimento da dei clan che si autogovernavano ai regni. And this was eventually to produce the emperor Ashoka. E questo alla fine produsse un imperatore Ashoka. Also there was a growth of business, merchants. C'era anche una crescita di commercio e di mercanti. So some people were becoming rich who belonged to a different castes. E quindi diventavano ricchi anche persone che appartenevano a caste differenti. And one of them was a great supporter of the Buddha, Anathapindika. E uno di loro fu un grande supporter, sostenitore del Buddha. Anathapindika. Anathapindika. E il nome? Anathapindika. Sì. E il nome è questo. Il nome l'ha detto lui. Sì. Yes, there was that. And there was also, because of the uncertainty in society, there was these men, mostly men, but some women, who left society to become ascetics. A causa di questo c'erano molti uomini, ma anche alcune donne, che lasciavano la società e diventavano asceti. Mm. The ascetics were always there, but by the time of the Buddha there were many of them. Gli ascetici erano sempre stati, ma ai tempi del Buddha ce n'erano molti. And it's the same time as those of you who know that the Upanishads began to be developed. What? It was the same time that the Upanishads, or the Hindu Upanishads, began to be developed. E nello stesso tempo furono sviluppate anche le Upanishad della cultura Hindu. Mm. So there were many things going on. Another thing that was happening was a loss of faith in ritual. Quindi a loss of faith. Ci fu anche una perdita di fiducia nei rituali. In a polytheistic society, in una società politeista, your relationship is with the gods. La relazione che si ha è con gli dei. And it's about power. È riguardo al potere. Mm. It's not about ethics. Non è riguardo all'etica. Mm. It's about giving the god what you think he or she wants in order to get what you want. La relazione è questa: dare agli dei ciò che si pensa che loro vogliano, in modo tale che tu stesso tu abbia ciò che vuoi. Mm. So there were huge sacrifices. Quindi c'erano dei grandi sacrifici. Hundreds of cattle, hundreds of horses. Centinaia di mucche, centinaia di cavalli. The Buddhists were one of the first to be against that sort of practice. E i buddhisti furono tra i primi ad essere contrari a questo tipo di pratica. Also the Jains, the Jaina. Anche i jainisti. So in that atmosphere he leaves in search of a teacher. E in questa atmosfera lui se ne va cercando un maestro. Mm. So the first ones he goes to are those teachers who help him to create these beautiful inner ecstasies. E i primi da cui va sono questi maestri che lo aiutano a creare una bella estasi interiore. We call them now jhanas or absorptions. E che sono quelli che chiamati jhana o assorbimento. Ah. So all religions have these types of experiences. Questo tipo di esperienza si ritrova in tutte le religioni. Mm. You can do it on the breath, practice of metta, saying prayers, beading. Si può avere con l'attenzione al respiro, con la pratica di metta, con la preghiera, con il rosario. Rosario. Just through concentration, a beautiful mental state arises. Dalla concentrazione insorgono questi stati mentali belli. And the thing about this is that you don't need anything out there. E la cosa da notare riguardo a questo è che non hai bisogno di niente al di fuori. Ah. So for instance, ordinarily, if we want to make ourselves happy, normalmente quando vogliamo diventare felici, so we go see a friend, we turn the television on, we eat biscuits. Andiamo da un amico, accendiamo la televisione o mangiamo un biscotto. So this is all dependent on something outside me. Quindi tutte cose che dipendono da qualcosa fuori da me. But these inner ecstasies, I don't need anything. I just need my little technique and boom, I'm in this heaven. E invece per questo tipo di estasi interna non ho bisogno di niente al di fuori, ho solo bisogno di una tecnica e a un certo punto pop si entra in questi stati. So you can understand, all you need in the East is a loincloth and a tree and a bowl e quindi, and a bowl, eh? And a bowl. Food. E quindi in Oriente tutto ciò di cui hai bisogno alla fine è un pezzo di stoffa da girarsi intorno alla vita, un albero e una ciotola per il cibo. Basta, it's enough. Questo è quanto. So the Buddha practiced this, but he found that when the ecstasy disappeared. E il Buddha praticò in questo modo, però trovò che quando l'estasi scompariva, he became depressed and anxious all over again. E lui diventava depresso, depresso e ansioso come era prima. Ah, so he tries a different system. E provò diversi different system. Ah, diversi sistemi. And this the big teacher was the leader of the Jains, the founder of the Jains. E un grande maestro fu il fondatore del Jainismo. Used to practice this. Did this practice. Che quello che the Buddha was going to do. Che questo che praticava, che insegnava al Buddha, told to the Buddha. Sì, sì. So the understanding was that the soul, the spirit, was trapped in the body. Allora la credenza era che lo spirito era intrappolato nel corpo. That the body itself was the karmic result of bad actions in the past life. E il corpo stesso era il risultato karmico di cattive azioni nelle vite passate. So the problem lay in the body. Quindi il problema era nel corpo. So by abandoning all the pleasures of the body, e quindi abbandonando tutti i piaceri del corpo, eventually the body would die. Alla fine il corpo sarebbe morto, and the soul would rise to heaven. E l'anima sarebbe salita al cielo. So in the Jain religion it is understood to be a real wholesome act to die by starving yourself to death. E quindi nel Jainismo è visto come un atto salutare morire attraverso il non mangiare. Non mangiare. Morire di fame. Yeah. Even today, very old people will stop eating. E anche oggi le persone molto vecchie smettono di mangiare. Just to let go of the body, you see. Per lasciare andare il corpo. This was done mainly by reducing your eating all the time. E questo si fa riducendo ciò che si mangia ogni volta. And he said he got so thin he could hold his spine through his stomach. E quindi dice che il Buddha era diventato così magro che poteva afferrare la spina dorsale attraverso lo stomaco. So if you try it you'll see how thin he was. E se ci provate vedete come lui doveva essere magro. So this came to an end when he realized it was just more suffering. Ma questo finì quando lui capì che non era nient'altro che maggiore sofferenza. So now we can understand that he's a little depressed. E ora possiamo capire che era un po' depresso. So he's come out with great expectation to find an answer to his suffering, and he's been round to everybody. And he hasn't found anything. E quindi era venuto con grandi aspettative di trovare una risposta alle sue domande. Aveva provato, ma non era giunto a niente. So we now have a story that he is sitting on a roadside. E c'è una storia of the Buddha. il Buddha che era seduto su una strada. And a woman passes by, we know her name, Sujata. E una donna che si dice che si chiamasse Sujata passa di lì. Sujata means auspicious birth. E Sujata significa auspicious. Auspicious. Augurale. Augurale, sì. Birth. Birth. Nascita. Nascita augurale. Augurale. Ecco. So, she is carrying some sweetmeats to offer to the god of a shrine. E lei stava portando un latte dolce per offrire a una divinità. But seeing this poor man, she offered it to him. E vedendo questo pover'uomo, decise di offrirlo a lui. Ah. So when he takes this refreshes him. E quando lui assaggia questo cibo, questo lo rinfresca. And for some reason, at this point, he remembers something that happened in childhood. E per qualche ragione a questo punto lui si ricorda di qualcosa che era successo nella sua quando era bambino. He was watching his father doing a plowing ceremony. E lui stava guardando suo padre che stava facendo la cerimonia della mietitura. And he remembers that he was in the same level of concentration and the joy of real interest. E lui si ricordò di essere nello stesso livello di concentrazione e della gioia del interest, della gioia del vero interesse. Ah, so this was very similar to the absorptions he had practiced with these other teachers. Questo era molto simile agli assorbimenti che aveva praticato con gli altri maestri. With one distinction. Ma c'era una differenza. There was that inquiry, that inquisitiveness. C'era questa inquiry. Sì, questo senso di investigazione. Sense of investigation. So he then began to his practice then turned completely upside down. A questo punto la sua pratica andò sottosopra. Where before he was seeking happiness, escaping suffering, mentre prima lui stava cercando la felicità per scappare dalla sofferenza, he now turns upon the suffering to investigate how he creates it in the first place. E a questo punto lui si girò a guardare la sofferenza per investigare come veniva creata. This inspiration, he sits under the Bodhi tree. Questa ispirazione, he sits under the Bodhi tree. With this inspiration, he sits under the Bodhi tree. Ah, con questa ispirazione rimase seduto sotto l'albero della Bodhi. And he makes a determination that either he would come to an understanding or he would die. E prese una determinazione: o arriverò a capire questo o morirò. Ah. So I always say, lucky for him, lucky for us, 6 hours, he made it. E io dico sempre, fortunatamente per lui e per noi, dopo 6 ore aveva trovato la risposta. Ah. So now what we have to understand from that is this way that he was looking at his father doing a plowing ceremony. Allora, quello che dobbiamo capire ora era il modo in cui lui guardava al padre mentre faceva la cerimonia della mietitura. So we have to go back to the way a child, especially before 7, but even up to 10-11, looks at something. E bisogna ritornare a capire come i bambini, intorno ai 7 anni, ma anche fino ai 10-11, guardano le cose. When a five, six, seven year old sees something for the first time, quando un bambino di 5, 6, 7 anni vede qualcosa per la prima volta, well, even 3 year old, for instance, a spider, per esempio un ragno, ah, you see their eyes lock into the seeing. I suoi occhi si bloccano. And the concentration is such that they don't hear anything. E la concentrazione è tale che non sentono più nulla. And their jaw drops, you see. E la loro mascella cade. So from our point of view, they look stupid. E quindi dal nostro punto di vista sembrano stupidi. So we usually wake them up. Così normalmente noi li risvegliamo. This is a big mistake. Questo è un grande errore. Because that the way the child is there captures all the factors of enlightenment. Perché il modo è un grande errore, perché il modo in cui il bambino si comporta è, corrisponde ai fattori dell'illuminazione. Then what happens, of course, the parent says, that's a spider. E normalmente quello che succede è che i genitori dicono, quello è un ragno. So now the child has an image, a perception with a word, spider. E quindi a questo punto il bambino ha un'immagine, una percezione con la parola ragno. The next time the child sees a spider, la volta successiva che il bambino vede un ragno, it rejoices in telling the parent that this is a spider. Gli piace dire ai genitori, ecco, quello è un ragno. Sì, ragno, sì. And the parent says, oh, very good. E i genitori dicono, bene, bravo. So, every time that child now sees a spider, they look at the spider from a concept. E quindi, successivamente, tutte le volte che il bambino vede un ragno, lo guarda da un concetto. So the spider is here and the child puts a concept on this spider. E quindi il ragno è qui e il bambino ci mette sopra un concetto. What they see is their concept, not the spider. E quindi quello che vedono a questo punto è il concetto, non il ragno. And that's what we're doing all the time as adults. E questo succede sempre negli adulti. Every time you look at a tree, you just say tree, and you're accepting what your mind is telling you. Tutte le volte che vedete un albero, voi dite albero e accettate quello che vi dice la mente. But in order to see that tree, you have to actually go to it and really look at it. Ma per vedere veramente l'albero dovete andare là e veramente guardarlo. And wait for the information. E aspettare l'informazione. And then you begin to see this tree again like a child, right at the sense base. E a quel punto cominciate a vedere l'albero così come lo vede il bambino, lì nello stesso posto. So this is our problem. Our problem is to return to the childlike mind. E quindi questo è il nostro problema. Il problema è di ritornare alla mente del bambino. And the way we do it is to stay with sensation and feeling. E il modo in cui lo realizziamo è di stare con le sensazioni nel corpo. Yes, either emotional or physical. Emozionali o fisiche. Because a sensation only arises in this moment and disappears. Le sensazioni insorgono in questo momento e poi se ne vanno. So if you experience a sensation fully, directly, then your mind is like a child's mind. Se fate esperienza di una sensazione completamente e direttamente, la vostra mente è come la mente del bambino. And you begin to see things as they really are, rather than your conceptual idea. E allora cominciate a vedere le cose così come sono realmente, piuttosto che vedere le vostre idee preconcette. Okay, so we'll come back to that in a minute. Ci ritorneremo fra un minuto. So what stops us doing that, we call the hindrances. Quello che ci impedisce di fare questo li chiamiamo gli ostacoli. These obstacles take us into the dream world, fantasies. Questi ostacoli ci portano nel mondo verde delle fantasie. And there's only two types. There's only two types. Ci sono solo due tipi. There are those types that excite the mind. Ci sono quelli che eccitano la mente. Ah, so all the things that we desire. Tutte le cose che desideriamo. Sex, drugs and rock and roll. Sex, drugs and rock and roll. So mine. Sesso, droga e rock and roll. All the things we don't like. Oh, tutte le cose che non ci piacciono. All our irritations, little hatreds, our anxieties. Irritazioni, malevolenze, ansie. All those things that make us restless. Tutte le cose che ci rendono irrequieti. Shame, guilt, remorse. Senso di colpa, vergogna, rimorso. Things like that. And doubt. E il dubbio. Yeah. This is not the wonder of a philosopher or a meditator. It's not the wonder. The wonder? What is a wonder? Wonder? Domanda? Filosofia? Non domanda. Yeah. Non so va. Not the doubt, not the honest doubt of a philosopher. Non è l'onesto dubbio del filosofo. This is the doubt that stops you doing something. Ah, è il dubbio che vi impedisce di fare qualcosa. Yeah. So we call it skeptical doubt. E quindi lo chiamiamo dubbio scettico. So all these make the mind very active. Tutte queste cose fanno diventare la mente molto attiva. So, every time the mind enters into the dream world, tutte le volte che la mente entra nel mondo dei sogni, as soon as you wake up, appena ci si risveglia, you note it. Lo notiamo. Desire, aversion, doubt. Desiderio, avversione, dubbio. Be very clear, because that dream is telling you what is disturbing the heart. E cercate di essere molto chiari, perché questo sogno è ciò che disturba il vostro cuore. Then you come into the body, into where you feel the emotion. E poi scendete giù nel corpo dove sentite l'emozione. And that's where you stay. You observe your reaction, remember? E poi state lì e osservate la vostra reazione. And that's all you have to do. E questo è quello che avete da fare. Because this mental turbulence is beginning to exhaust itself as a feeling through the body. E questa emotional turbulence. Turbulenza emozionale piano piano si esaurisce through the body. Attraverso il corpo. When it comes through the mind, it's creating more. E quando arriva alla mente, la mente crea ancora di più. The thinking process is making the emotional state growing. Il processo del pensare fa crescere questo stato emozionale. Sì. So if you cannot feel an emotion, you go back to the breath. Allora, se non si può sentire qual è l'emozione, si ritorna sul respiro. So that is always the same technique. La tecnica è sempre la stessa. On the other side, there are those mental states that send us into oblivion. Dall'altro lato ci sono quegli stati mentali che invece ci mandano nell'oblio. Sweet oblivion. Dolce oblio. There's no suffering in oblivion. Non c'è sofferenza nell'oblio. It's just we keep waking up. It's just we keep waking up. È solo che poi ci si continua a svegliare. So when you feel the dullness in the head, heaviness in the body, quando sentite la mente annebbiata e il corpo pesante. So you have to make that special effort to remain awake. Allora dovete fare uno sforzo speciale per restare svegli. And you can keep moving around inside the head, all over the body. Keep investigating. Potete muovervi dentro la mente o dentro il corpo con il processo di investigazione. Every time you move your attention, you wake yourself up. Tutte le volte che muovete l'attenzione, vi risvegliate. Because of an act of attention is an act of intention. Perché un atto di attenzione è un atto di intenzione. That is why everything you attend to is conditioning you. That is why everything you attend to, whatever you pay attention to. Tutte le cose a cui si fa attenzione. It's conditioning you. E vi stanno condizionando. We can explain this more tomorrow. So these hindrances now become our teachers. Questo lo spiegheremo meglio domani. Questi impedimenti diventano i nostri maestri. Really use them to investigate how we are creating this inner world. Li possiamo usare per investigare come noi creiamo il nostro mondo interiore. Sì. So finally, what is it we're investigating? Alla fine, che cos'è che stiamo investigando? So these the Buddha called the three characteristics of existence. Il Buddha le chiama le tre caratteristiche dell'esistenza. What he discovered was that this is the second noble truth. Questa è la seconda nobile verità. So the first one is there is suffering, there is unsatisfactoriness. La prima è che c'è la sofferenza, c'è la insoddisfazione. Unsatisfactoriness. And the second one is that desire, wrong desire, is the psychological cause for it. E la seconda nobile verità è che il desiderio sbagliato è la causa psicologica della sofferenza. So we must always try to be aware of our reaction to what we're experiencing. Quindi bisogna essere sempre attenti alla nostra reazione a ciò che stiamo sperimentando. If we're aware of it, we're not indulging it. Se noi siamo coscienti, non indulgiamo in questa cosa. And because we're not indulging it, those desires begin to exhaust themselves. E siccome noi non indulgiamo in questi desideri, questi piano piano si esauriscono da soli. Be careful that you don't find yourself fighting them. E attenzione a non trovarvi a combatterli. If you form a conflict, then you're adding irritation, not wanting, to the inner turbulence. Se voi iniziate un conflitto, allora ci aggiungete questa turbolenza interiore, voi ci aggiungete il conflitto. Così. Our attitude is to be very open-hearted, open-minded to what is being offered to us. La nostra attitudine è di avere il cuore e la mente ben aperti a quello che ci viene offerto. We're not trying to get rid of anything. Noi non cerchiamo di liberarci di niente. We're asking the heart to offer us its turbulence. Come on. E chiediamo al cuore di offrirci questa turbolenza. Sì, dai. Yes. See? And then we just accept it and we begin to investigate the qualities, the textures. E a quel punto noi l'accettiamo e cominciamo a investigare la qualità, la grana di questa turbolenza. And remember to really feel the desire, see? E ricordate di sentire veramente il desiderio. Wanting, not wanting. Volere, non volere. Ah, sì. You don't have to do anything. Non dovete fare niente. Yeah. The heart heals itself. Il cuore si cura da solo. When it comes into consciousness. Quando entra nella consapevolezza. Sì. Yes, when it enters into consciousness. If it doesn't enter into consciousness, it stays as a turbulence within the heart mind. Within what? The heart mind. Ah, the heart mind. Se non va nella consapevolezza, allora rimane nella turbulenza che è dentro la mente cuore. Sì. The second quality, remember, is impermanence. La seconda qualità è l'impermanenza. Now, impermanence here means that in every nanosecond a consciousness is flashing and turning off. L'impermanenza qui significa che ogni nanosecondo la coscienza si accende e si spenge. Ah. Whatever happens in the world out there, we experience it as moments of consciousness. Tutto ciò che succede nel mondo là fuori, noi ne facciamo esperienza come momenti di coscienza. Ah. So, this feeling that we have of something continuous is a delusion. E quindi questa sensazione che c'è qualcosa di continuo è un'illusione. Mm. Perhaps in your more concentrated meditation, perhaps you can see how that is happening. Forse se siete in una meditazione molto concentrata potete vedere come questo succede. Difficult in a weekend. Difficile in un weekend. But on a grander scale, we can begin to acknowledge that things come to an end. In a bigger scale. E su in una scala più grande possiamo capire come everything comes to an end. Sì, tutto arriva ad una fine. Usually we're aware of the beginning of something. Normalmente noi siamo coscienti dell'inizio di qualche cosa. For instance, we're aware when we're developing a cold or a headache. Noi siamo coscienti che stiamo per sviluppare un'influenza o un mal di testa. But how many of us see the end of it? Ma quanti di voi vedono anche la fine di questo? Usually as soon as the pain begins to decrease, the attention goes to something new. E normalmente appena il dolore comincia a diminuire, l'attenzione va a qualcosa di nuovo. We are always aware of the new film star, the new singer. Noi siamo sempre consapevoli della nuova star del cinema o del nuovo cantante. Where are they now? Dove sono ora? They disappear. Scomparsi. Because our attention moves to the next new film star. Perché la nostra attenzione passa alla successiva star del cinema. So we're always being aware of what's new, because what's new is always arising. E quindi siamo sempre consapevoli di ciò che è nuovo, perché ciò che è nuovo sta insorgendo. In other words, we're always being born into something new. In altre parole, si nasce sempre a qualcosa di nuovo. But we don't see that there's a dying process, a decay and a death. Noi non vediamo che c'è un processo di decadimento e morte. That's why when somebody falls seriously ill, somebody dies, it always comes with a big shock. E questo quindi spiega perché tutte le volte che qualcuno muore abbiamo un grande turbamento. So we have to begin to stay with things until we see the end. That's important. Quindi bisogna cominciare a stare con le cose finché se ne vede la fine. Questo è importante. Is to know this is the end of a day. e notare la fine del giorno. Ah, that day is gone, completely disappeared. Il giorno è finito, scomparso completamente. It will never arise again. E non ritornerà ancora. Ah. So you might think, well, if I keep thinking about this sort of thing, I'm just going to get depressed. Se la mente comincia a pensare a questo tipo di cose, diventerò depresso. Ah, no, is the opposite happens. No, invece succede l'incontrario. Ah, the opposite is that you begin to see how precious life is. Perché cominciate il contrario è che cominciate a vedere come è preziosa la vita. And how it's important for us to give it meaning. E come è importante per noi dargli un significato. So this is understanding impermanence. Questo è capire l'impermanenza. Finally, not self. Infine c'è il non sé. The Buddha never said there was no self. Il Buddha non ha mai detto che non c'è un sé. Ah, everybody experiences a self. Tutti hanno esperienza del sé. Ah, what he says is, it's not real. Quello che lui dice è che non è reale. Ah, so what we are doing is beginning to deconstruct how we define ourselves. E quindi quello che facciamo è decostruire la nostra definizione di noi stessi. So in our meditation we are through the noting, you see, there's pain, there's an emotion. E quindi nella meditazione, attraverso il processo delle note mentali, c'è dolore, c'è emozione. Oh, c'è là. It's over there. Là. Ah. So this separation means that everything we're observing is an object. E quindi questa separazione significa che tutto ciò che noi osserviamo è un oggetto. Ah, so make that very clear to yourselves. E fatelo molto chiaro questo punto. Ah, so the perceiver cannot be the perceived. Ciò che percepisce non può essere ciò che viene percepito. Ah. And also, when we're in meditation especially, you can see that the body, mind and heart offer all this information whether we want it to or not. E spesso quando siamo in meditazione possiamo capire che corpo, mente e cuore danno questa informazione che noi lo vogliamo o no. Ah. Thoughts, images, emotions, sensations, ooh. Pensieri, immagini, emozioni, sensazioni. If you try to stop it, you're in great conflict. Se cerchi di fermarlo, queste cose, sei in grande conflitto. Mm. So we just let them rise and acknowledge, not under my control. E quindi le lasciamo insorgere, le riconosciamo che non sono sotto il nostro controllo. Ah. See? Of course we can take control to a certain extent. Noi naturalmente possiamo prendere il controllo fino a un certo punto. Ah, but it's like a driver who drives a car. È come un guidatore di una macchina. Ah, you can make the car turn left and right, go fast, go slow. E puoi far girare la macchina a sinistra, a destra, far andare più piano, più forte. Ah, but when it runs out of petrol, that's the end. Ma quando finisce la benzina è la fine. Ah, so there's something about the car you don't control. C'è qualcosa riguardo alla macchina che non puoi controllare. Ah, so we can't make the body grow younger, we can't stop it dying, and so on and so forth. Non possiamo far crescere il corpo più giovane o fermare la morte o cose di questo genere. Ah, sì. So it's recognizing that, no control, if I can't control it, it can't be me. Allora, non c'è controllo se noi riconosciamo che if I can't control it, it can't be me. Ah, se io non posso controllarlo, quindi non sono io. Non può essere me. So, just to recap what we said. Per ricapitolare quello che abbiamo detto. Bring to mind, if it helps you, bring to mind how a child looks at something. Se vi può aiutare, riportate alla mente come un bambino guarda le cose. In order to understand right awareness. per capire la retta consapevolezza. This right awareness, of course, is also looking at things through these three characteristics. E la retta consapevolezza è anche guardare alle cose attraverso le tre caratteristiche. Ah. How we relate to what we're experiencing, wanting, not wanting. E poi come ci relazioniamo con le nostre esperienze, quindi volere e non volere. How everything is impermanent. E come tutto è impermanente. And so not reliable. E quindi non affidabile. And how everything is an object. E come tutto è un oggetto. Not under our control. E non è sotto il nostro controllo. Ah, is in the sitting. E questo durante la seduta. And that when the hindrances come, e quando arrivano gli impedimenti, we have to work with the desire, the wanting, the not wanting. Dobbiamo lavorare coi desideri, volere, non volere. And we just allow the hindrances to manifest and exhaust themselves. E così possiamo lasciare che questi impedimenti si manifestino e poi si esauriscano da soli. While they're doing that, we're supposed to investigate their qualities. Mentre questi impedimenti stanno facendo ciò, noi siamo tenuti a investigarne le qualità. I can only hope my words have been of some assistance. Io posso solo sperare che le mie parole siano state di un qualche aiuto. That I have not caused even greater confusion. E che non vi ho causato ancora una maggiore confusione. That by your careful practice. E che attraverso la vostra pratica attenta. You will be liberated from all suffering. Sarete liberati da maggior sofferenza. Sooner rather than later. Prima piuttosto che dopo. Sadhu, sadhu, sadhu. Grazie. So we can do some walking meditation and then I've lost my schedule. Schedule, facciamo un po' di meditazione camminata. Yeah. And then we'll come back for another sitting. E poi torneremo per un'altra seduta. I think we need more. Maybe we can ring the bell for the sitting at 19:40. Who's ringing the bell? Chi è che suona la campana? Il prossimo che suona la campana, chi è? 19:30, sì. 19:40. 1940, yeah, maybe later. Communication. maybe how long do you need to communicate? Oh, okay. A long communication. Well, after Jenny has finished, 25 minutes, and then ring the bell. Thank you. Do I need to be here for this great communication? Allora, dopo che Jenny ha finito la comunicazione. La campana suonerà dopo 25 minuti. 25.